Cammino dentro stanze ricavate nella roccia, cercando sopra i muri un segno fragile, una traccia. Gradini consumati dalla pioggia, dai passaggi, portano via dal sole, dal calore, dai suoi raggi. Specchio si increspa con la scia dei pescatori, unico movimento di una scena senza attori. Il tempo sembra assente, forse indaffarato altrove. Mi siedo, metto a fuoco queste sensazioni nuove. Su questo fiume addormentato ritrovo quello che ho lasciato, su una terrazza illuminata che non sapevo era smarrita. Qui siamo milioni di colori che vivono intrecciando amori, ma hanno un'unica radice, nascono da una stessa luce. Scendo sul sentiero che mi porta fino al fiume, un usignolo specchia dentro l'acqua le sue piume, piccole onde lente accarezzano la riva e cullano leggere ogni cosa che sia viva. Qui hanno vissuto uomini momenti, ore infinite, cercando nel silenzio il senso delle loro vite. Immagino l'intensità dei gesti quotidiani, con solo qualche povero strumento nelle mani. Qui, aggrappato a un angolo del cielo, mi guardo intorno e sono solo, sguardo rivolto verso oriente, seguo una magica corrente. Qui siamo milioni di colori, siamo il dipinto e i pittori, ma abbiamo un'unica radice, veniamo da una stessa luce. Adesso non so più quanto è il tempo passato, l'oscurità mi avvolge ora che il sole se n'è andato, gli spiriti notturni già si sentono nell'aria e parlano fra i rami di una storia millenaria. Adesso non so più quanto è il tempo passato, l'oscurità mi avvolge ora che il sole se n'è andato, gli spiriti notturni già si sentono nell'aria e parlano fra i rami di una storia millenaria.